Just a kiss, just a kiss. I have Il terzo orgasmo, rubrica di cultura lesbica femminista, presenta Rita Levi Montalcini e l'immortalità. Carissime radioascoltatrici, quelle due del terzo orgasmo sono felici di essere ancora qui tra voi ad augurarvi un meraviglioso 2013. Ci siamo sbilanciate troppo? Decente con qualche soddisfazione e più realistico? Ma no, non bisogna mai temere di sbilanciarsi troppo. Occorre osare, bisogna volere il meglio. Bene, allora eccomi qui cari, io sono il meglio e con me, sapete, potete osare. L'anno cambia, si spera ardentemente che qualcosa cambi, alcune cose cambiano ma altre rimangono sempre le stesse. Ce l'hai con me forse? Veniamo alla nostra. Bene, noi siamo qui tra voi mentre Rita Levi Montalcini ha lasciato questa terra il 30 dicembre 2012, scusate, alla tenera età di 103 anni. In un'intervista Rita ebbe a dire che era atea e che se proprio doveva pensare all'immortalità ci pensava nei termini di quello che durante la vita si insegna e si lascia agli altri. Secondo me non è importante vivere a lungo. Ho avuto fortuna a scoprire l'NGF. La vita non finisce con la morte. Quello che resta di te è quello che trasmetti ad altre persone. L'immortalità non è il tuo corpo, che un giorno morirà. Non mi importa di morire. La cosa importante è il messaggio che lasci agli altri. Questa è l'immortalità. Quello che vogliamo fare oggi, dunque, non è una commemorazione, ma il vaglio dell'eredità di una donna che diceva di avere un'intelligenza mediocre e che i suoi risultati erano solo frutto dell'impegno e della dedizione. Certo, se i nostri politici, e non solo loro, avessero un decimo della modestia di Montalcini, ma no, loro vanno avanti senza paura. Eppure senza vergogna, aggiungo io. Can't run fast enough, can't hide it, can't fly. I'm struggling with of this ordinary life. I'm just a first try. I'm just a first try. Thank you. just a first try. Can't be just a first try. Just a first try. Cosa abbiamo da lasciare agli altri? Cosa hanno lasciato a noi le altre del passato? È quello che ci siamo chieste, su cui ci interroghiamo oggi insieme a voi, parlando di Rita Levi Montalcini. È necessario fare una premessa. Abbiamo già detto che non vogliamo fare una puntata commemorativa o dirci quanto è stata brava, come è stata geniale, come si fa solitamente con chi muore, ma cercare di ragionare e riflettere su alcune cose che ha detto e scritto. Questo perché, a differenza di altre grandi personalità, lei ci ha lasciato un grande numero di pubblicazioni di carattere non strettamente scientifico. Gli scritti autobiografici e le interviste ci mostrano infatti la personalità non solo di una grande scienziata, ma anche di una donna che si confronta con quello che la realtà le offre. Una realtà che le remava fortemente contro. Era ebrea nel momento delle leggi razziali. È donna in un periodo storico in cui, come dirà Rita stessa in un'intervista, per le donne era molto difficile, era quasi impossibile fare lo scienziato ed essere anche una buona madre e una buona moglie. Le donne non dovevano avere interessi professionali, dovevano essere educate ad essere mogli e madri. Io non condividevo queste idee e decisi di non diventare mai né moglie né madre, ma sono andata per la mia strada. Quindi la prima domanda è: come si fa a fare quello che si vuole fare in condizioni storico-culturali e politiche avverse? E ancora prima della prima domanda c'è la domanda di grado zero: come si fa a sapere quello che si vuole fare? E se una come me, ad esempio, non sa rispondere nemmeno alla domanda di grado zero? Se io dovessi ancora capire cosa voglio fare nella mia vita? Non ti preoccupare, ho l'impressione che il mondo vivrà bene comunque, anche senza il tuo apporto scientifico. Chissà se Rita nei suoi studi sul cervello ha anche studiato le perversioni dell'amicizia, perché io è da 7 anni che mi chiedo perché ti frequento. Purtroppo, se ne è venuta a capo, avrà portato il suo segreto chiuso dentro sé. Lo so che aveva 103 anni e probabilmente non ha senso dirlo, ma mi dispiace che sia morta. Mi piaceva molto lei. Onde evitare che Nenzini, cuor di vitella, vada in eccesso di pathos, passiamo a vedere cosa ha scritto Rita. Questa è stata proprio una sorpresa. Non pensavo che avesse scritto tanti libri, e non sto parlando delle opere strettamente scientifiche, ma di opere, non so come definire, letterarie. In effetti, prima di intraprendere la strada della medicina, l'aspirazione di Rita Levi Montalcini era quella di diventare scrittrice. Il suo lavoro scientifico è stato quindi costantemente accompagnato da pubblicazioni di natura divulgativa e di carattere letterario. Scrivere è un divertimento, una gioia. Mentre credo di non parlare bene, quando scrivo riesco a filtrare la frase tante volte e a dire quello che voglio esattamente. Mi alzo alle 6 del mattino, ma durante la notte continuo a pensare sia ai titoli che alle copertine dei miei libri. Mi basta avere il titolo giusto per iniziare a scrivere ininterrottamente. Vedi quanto ne sappiamo poco di lei? Si aspetta sempre che qualcuna muoia per riscoprirla e per conoscerla. Le grandi personalità da vive ci fanno paura. Riusciamo a guardarle, ad ascoltarle, solo dopo che le chiudiamo in una bara. Sun. Dicevamo prima che trovare i titoli delle proprie opere era cruciale per Rita Levi Montalcini. Vediamo allora che cosa scrisse. 1975, Il messaggio nervoso. 1987, Elogio dell'imperfezione. 1989, NGF, apertura di una nuova frontiera nella neurobiologia. 1983, Il tuo futuro. 1996, Senz'olio contro vento. 1987, The Saga of NGF. 1998, Lasso nella manica Brandelli. 1999, La galassia mente. 2000, Cantico di una vita. 2001, Un universo inquieto. 2002, Tempo di mutamenti. 2004, Abbi il coraggio di sapere, Sapere aude. 2004, Tempo di azione. 2005, Eva era africana. 2006, I nuovi Magellani nell'era digitale. 2006, Tempo di revisione, cronologia di una scoperta, Le tue antenate, X, un futuro nuovo. Il problema dell'ineguaglianza giuridica e culturale delle donne, che traspare da molti titoli, è un tema centrale nelle riflessioni di Montalcini fin da quando è piccola. Se a questo proposito volete conoscere qualcosa di più di lei, potete leggere l'autobiografia dal titolo L'elogio dell'imperfezione, scritta nel 1987, l'anno successivo al premio Nobel. Rita scrive: mi era difficile ascoltare senza provare un senso di irritazione. Impersonando papà Germont, mio padre cantava radendosi i famosi versi: Disprezzo degno se stesso rende chi pur nell'ira la donna offende. Questo cavalleresco atteggiamento alla Ruskin verso la donna, innocente o colpevole, mi dava un'ulteriore conferma della vantata superiorità dell'uomo che non accettavo. I cugini materni, con i quali trascorrevo le vacanze estive, si divertivano a stuzzicarmi. Conoscendo la mia sensibilità su questo argomento, vantavano l'assoluta supremazia intellettuale degli uomini. Quando mai era nato un Newton, un Einstein, un Bach, un Beethoven, un Michelangelo, un Leonardo da Vinci, un Raffaello? E la lista delle citazioni continuava per ore di sesso femminile? La mia scarsa cultura, basata a quei tempi più che sulle nozioni scolastiche, sull'appassionata lettura dei 12 volumi dell'Enciclopedia dei Ragazzi, confermava quello che Giorgio e Paolo, più vecchi di me di 5 e di 2 anni, asserivano. La mia sola difesa e il mio vanto erano Saffo, Vittoria Colonna e Gaspara Stampa, passate alla storia per i loro poemi. La decisione di non sposarsi, di non essere madre e moglie, fu presa di comune accordo da Rita e dalla sorella gemella Paola, importante scultrice. Una decisione che non è mai venuta meno, che lei ha sempre ribadito con determinazione e con fierezza, fino alla fine dei suoi giorni, convinta che la parità, che oggi più che mai è tanto decantata, in realtà sia ancora solo formale. Chissà se ogni tanto, pensando a questi uomini convinti della superiorità intellettuale, morale e culturale dell'uomo sulla donna, come ancora ce ne sono tantissimi, sia di destra che, ahimè, duole dirlo, di sinistra, tra un disco e l'altro di Bach, con cui amava svegliarsi al mattino, non ascoltava di tanto in tanto anche Giovanna Marini? Ma non vi vogliamo raccontare questo. Vi vogliamo raccontare quanto è bello il suono questa sera. Il suono organizzato. Vi vogliamo fare sentire molti suoni. E partiamo dalle terze. Progrediamo. Torniamo. Allora facciamo finta che Patrizia è il priore e fa la tonica. Io l'amministratore, per piacere, faccio la quinta. E poi i giovinetti fanno la terza e le ottave, perché devono essere giovani e più spregiudicati. Re minore, Mi minore, Re minore, Do maggiore col ritardo, sentite bene, bello, Si bemolle, La con ritardo, Do maggiore, Adesso da Do maggiore ce ne andiamo a Mi maggiore. E guardate bene che le componenti di questa nota, Do, Mi, Sol, cambiano, ma il Mi resta uguale. Ma non resta affatto uguale. Il Mi di Do maggiore non può essere il Mi di Mi maggiore. Sentirete che il Mi di Mi maggiore, che lo fa Patrizia e lo faccio io, cambierà. Il Sol sale piano piano al Sol diesis e lo fa piccolo. E il Do se ne va piano piano al Si. Riprendiamo dal Do, Settima di passaggio, La bemolle. Bellissimo. La bemolle minore. Quindi Patrizia sta facendo un Do bemolle che è un Si. Ma allora noi ci facciamo un bel Si maggiore. E il mio Mi bemolle diventa Re bemolle. Risolviamo. Intensamente. Ecco. Quando qualcuno che vi dà fastidio con le solite banalità sulle donne, ricordatevi che della sana intelligente ironia è la risposta giusta. In merito al rapporto tra donna e sapere, Rita diceva: la donna è stata bloccata per secoli. Quando ha accesso alla cultura è come un'affamata. Il cibo è molto più utile a chi è affamato rispetto a chi è già saturo. In questa prospettiva etica si situa il lavoro sociale di Montalcini, che in Africa mette su una scuola solo per donne e che scrive un libro dal titolo eloquente «Eva era africana». Sebbene il potere sia nelle mani degli uomini, signori della guerra, saranno le donne a salvare l'Africa. A questo sogno progetto Montalcini ha dedicato i suoi soldi e la sua vita. In Eva era africana si narra il rinvenimento in Etiopia nel 1974 dello scheletro del primo ominide, Lucy, e vi sono anche 14 testimonianze femminili. Dalla ginecologa Naid Tobia, che combatte le mutilazioni genitali, al premio Nobel per la pace la donna africana Wangara Maathai. Montalcini ha cercato per tutta la vita, tramite la fondazione da lei creata, di dare rilievo alle potenzialità enormi, inesplorate e inutilizzate delle giovani donne, convinta che l'istruzione salverà le bambine del nord e del sud e avrà ripercussioni positive nel resto del mondo. Da un punto di vista particolare, quello di donna di scienziata, Rita Levi Montalcini guarda alla Terra, al mondo, all'universo, alla scienza, a Internet, con un occhio disincantato, eppure attivo, sempre impegnato, pieno di energie. «Il corpo faccia quel che vuole, io sono la mente», afferma in un'intervista. Potremmo dire, parafrasando Lonzi, che sputa su Aristotele e sul suo schema binario, tanto maschilista quanto falso. Guarda l'essere umano da un punto di vista orgogliosamente ateo. Mi sembra che uno degli insegnamenti più coraggiosi di Rita nel panorama politico bigotto, assuefatto e compiacente in cui viviamo sia il coraggio di conoscere il nostro cervello, il suo funzionamento senza sentimentalismi o patetismi. Uno dei suoi libri, ad esempio, si intitola «Abbi il coraggio di conoscere». Ed è vero, la conoscenza richiede che si abbandonino le false sicurezze. È necessario osare se si vuole vivere, se si vuole avere qualcosa. Sì, il titolo riprende quello che per Kant era il motto dell'illuminismo. Sapere aude, abbi il coraggio dell'intelligenza. Il pensiero umano è sconfinato, non ha colonne d'Ercole, dice Rita. E qui faccio la mia domandina di rito, e la faccio a me e la faccio a tutte. Quanto coraggio avete? Quanto coraggio abbiamo? Usiamo sufficientemente la nostra intelligenza? Riusciamo ad avere un'intelligenza rispettosa degli altri? You come on, a lei. Ne ancora alcune di quelle menzionate. Quindi ricordiamo altre opere. L'asso nella manica Brandelli del 1998 è un'opera rivolta a coloro che si apprestano ad affrontare la vecchiaia, ovvero gli ultrasettantenni. Ultrasettantenni che ci ascoltate, battete un colpo. Anche nelle riflessioni sulla vecchiaia Rita ha tanto da dire. La società in cui viviamo ha una visione errata dell'anzianità, oltre che avere nessuna considerazione dei vecchi. C'è in questo atteggiamento un'ignoranza di fondo, quella di non sapere che il cervello possiede formidabili strategie per combattere gli insulti dell'età, perché invecchiare bene dipende dagli interessi coltivati e anche dall'amore per gli altri, lavorando per un futuro che non ci appartiene. Ancora Rita. Galileo Galilei, Bertrand Russell, Michelangelo, Picasso e altri grandi geni riuscirono a compiere grandi cose nella tarda età. Una persona può comprendere la mia età dall'aspetto esteriore, ma è difficile che qualcuno scopra i miei anni ascoltando le mie parole o i miei concetti. La verità è che il corpo invecchia, il cervello, se non soffre di patologie particolari, non ha rughe. Un'altra opera che vogliamo ricordare è Un universo inquieto, opera del 2001 in cui Rita descrive il percorso artistico della sorella gemella Paola. Come molte artiste in vita, non è stata valorizzata sufficientemente e dopo la morte ha ricevuto molti riconoscimenti. Riferendosi al periodo in cui finalmente hanno vissuto insieme a Roma, Rita dirà: come nel cammino di Arte e Scienza, due rette parallele si incontrano all'infinito. E poi, per le amanti del genere epistolare come me, vi consiglio caldamente Il Cantico di una vita, che raccoglie le lettere ai familiari scritte durante un quarto di secolo e narra non solo delle difficoltà nel lavoro affrontate, sempre con molta determinazione, ma anche della vita privata. Continuo ad essere luna di miele con i miei embrioni. Ogni giorno il piccolo spiraglio che ho aperto si apre un pochino di più. Gennaio 1951. Ci piacerebbe parlare ancora tanto di Rita, ma il tempo non ci consente di dilungarci troppo. Chiudiamo dunque questa puntata con un'ultima citazione tratta dall'autobiografia L'elogio dell'imperfezione del 1987. Vale la pena infatti dare la spiegazione di questo titolo attraverso le parole della stessa autrice. L'imperfezione ha da sempre consentito continue mutazioni di quel meraviglioso, quanto mai imperfetto meccanismo che è il cervello dell'uomo. Ritengo che l'imperfezione sia più consona alla natura umana che non la perfezione. Lo scarafaggio, nella sua perfezione, è la copia conforme del suo antenato, vissuto centinaia di milioni di anni fa. Il cervello e i suoi meccanismi cerebrali non si sono evoluti. È perfetto, mentre quello dell'uomo è imperfetto. L'essere umano non è rigidamente programmato. Ogni individuo è diverso dall'altro. Mi sorge una spontanea osservazione. E me fai paura. Vedi, quello che sta dicendo Rita è che tu, Nancini, devi essere contenta del tuo cervello imperfetto. Perché è questo che ti differenzia dallo scarafaggio. Questa imperfezione è il segreto della crescita. Sarà allora sempre a causa della mia imperfezione, ma mi chiedo perché quello che mi dici, anche quando sembra bello, mi sembra sempre brutto? Sinde, la pisca se ne mavrazza cala in mosca fa in fin de pinde, come vene la susca, e cund sinde busca. Sinde, la pisca se ne mavrazza cala in mosca fa in fin de pinde, come vene la susca, e cund sinde busca. Sinde, la pisca se ne mavrazza cala in mosca fa in fin de pinde, come vene la susca, e cund sinde busca. Sinde, la pisca se ne mavrazza cala in mosca fa in fin de pinde, come vene la susca, e cund sinde busca. Sinde, la pisca se ne mavrazza cala in mosca fa in fin de pinde, come vene la susca, e cund sinde busca. Sind, pischke se ne me vratze kalle ne moske falle ne winde pinde kamma vene ne suschke e kunden sinne ne buschke sinde da pischke se ne me vratze kalle ne moske falle ne winde pinde kamma vene ne suschke e kunden sinne ne buschke. Ritorniamo allora alle domande da cui siamo partite. Cosa abbiamo da lasciare agli altri? Cosa hanno lasciato a noi le altre del passato? Quello che ci rimane di Rita Levi-Montalcini è impegno, concentrazione, metodo, attenzione e fiducia alle donne, anticonformismo, la razionalità atea, del tutto priva di nichilismo, di cinismo e di depressione, una smisurata curiosità e sete di sapere. Cosa lasciamo noi alle altre? Nensini, cosa lascerai tu? E con la consueta mortificazione mia, siamo arrivate anche stavolta al termine della nostra puntata. Vi ringraziamo per aver ascoltato il dovuto ricordo a Rita Levi-Montalcini e vi diamo appuntamento al 5 febbraio con un'altra puntata del Terzo Orgasmo. Per chi volesse scriverci, ricordiamo il nostro indirizzo mail, ilterzoorgasmo@gmail.com. Una buona serata a tutte, da Nancy e Genziana. Ir menulėje nevyksta karas, o menulį daug valgyklų, kur nemokamos bandelės. O menulėje gyvena elniai, jų nenumuša mašinos, kai jie žiūri šitaip švelniai, net vaikams nėra anginos. Ten kiekvienas pats saunojus, ten visai nereikia skėčių. O menulį yra drakonų, jos paglostyti gali.